Annie Vivanti. Nacque a Londra nel 1866, ma pur continuando a viaggiare moltissimo, visse in Italia, attratta dalla causa nazionale risorgimentale. Suo padre, infatti, era un esule mazziniano, sua madre una scrittrice, e questo fece di lei una donna di mente molto aperta. Scrittrice, giornalista di valore e reporter ante litteram, Anni Vivanti viene tuttavia tramandata dalla storia patriarcale androcentrica solo come la giovane poetessa amata dal vecchio Giosuè Carducci. Eh sì, il vecchio poeta si era innamorato. Come andarono i fatti lo descrisse la stessa Annie in un articolo. L'editore Emilio Treves, scriveva Annie, teneva tra due dita sdegnose il sottile rotolo manoscritto che io gli avevo portato, inorridito dall'idea di pubblicare le poesie di una ragazza. Ci vorrebbe, per esempio, disse l'editore, una prefazione del Carducci, allora si potrebbe riparlarne. Il giorno dopo Annie partì alla volta della sfida epocale. Carducci all'epoca aveva 55 anni, mentre Annie ne aveva 24. Si innamorarono e fu scandalo. Uno scandalo che provocò anche la stroncatura del suo romanzo del 1891, il primo da lei scritto, Marion, artista di caffè concerto. 2 anni più tardi, la 26enne Annie sposò in Inghilterra un politico, giornalista e attivista irlandese e da quel momento trascorse quasi 20 anni tra Gran Bretagna e Stati Uniti scrivendo solo in inglese, romanzi, opere teatrali, tutte di successo. L'unico flop l'ebbe proprio di nuovo in Italia, che non apprezzò il suo dramma La Rosa Azzurra, non intendendone probabilmente il sottile humor inglese, di cui le sue opere, anche le più serie, erano pervase, tanto che si creò un vero e proprio stile vivantiano, a metà tra melodramma e commedia, caratterizzato da dialoghi brillanti, pieni di battute umoristiche, spesso ciniche, pronunciate da personaggi che sono delle vere e proprie macchiette. Annie aveva scritto La Rosa Azzurra per Eleonora Duse, la quale però, presentendo il fiasco che lei stessa contribuì ad alimentare, non accettò di interpretare la pièce in teatro e fu sostituita dalla altrettanto famosa e bravissima attrice dell'epoca, Irma Gramatica. Durante la Prima Guerra Mondiale, Annie si schierò per la causa italiana. L'anno successivo al matrimonio nacque la figlia Vivien, che ben presto cominciò ad affermarsi come enfant prodige del violino e divenne una celebrità internazionale. Dal successo della figlia Annie trasse ispirazione per l'opera sua più celebre, I Divoratori, scritta e pubblicata prima in Inghilterra e poi riscritta in italiano. Con questo romanzo, nel quale descrive, ispirandosi a sua figlia, come i e le giovani geni divorino la vita di coloro che vivono loro accanto, Annie tornò a dominare il mercato editoriale italiano, infilando un successo dietro l'altro con la pubblicazione di romanzi, raccolte di novelle, drammi, opere per l'infanzia e reportage di viaggio. Le sue opere, oltre a un grande successo di pubblico, ricevettero recensioni positive anche dai più illustri nomi della critica letteraria italiana. Nonostante la sua internazionalità e lucidità di visione, Annie viene oggi classificata come autrice di romanzi di facile consumo, secondo la modalità patriarcale che squalifica regolarmente le opere femminili di valore. Eppure nei suoi libri ha affrontato temi scabrosi, per esempio Circe, che la scuola delle donne vuole proporre, è il romanzo Confessione di Maria Tarnowska, una nobildonna russa che finì sotto processo nel 1910 in Italia per aver fatto uccidere un suo amante e che l'intrepida Annie ottenne di intervistare, ricavandone uno dei primi romanzi reportage in cui si evidenziava Maria Tarnowska come vittima delle circostanze che la spinsero al gesto. In seguito, nei suoi romanzi, Annie denunciò la società corrotta del primo dopoguerra, il colonialismo inglese in Egitto, gli stupri delle donne belghe durante l'occupazione tedesca. Le opere dedicate a quest'ultimo tema furono naturalmente censurate. I resti di Annie riposano nel cimitero monumentale di Torino, dove lei si era stabilita definitivamente ormai anziana e malata. Il suicidio della figlia ad appena 48 anni le diede il colpo di grazia dal quale non si riprese. Annie la seguì un anno dopo, a 76 anni. Sulla sua tomba, i versi che Carducci le aveva dedicato sostituiscono una adeguata targa che dovrebbe ricordare il suo valore e la sua opera di fervente attivista. Oh Italia eterna, Italia unico amore, scrisse Annie. Tu ci dicesti vivete e noi, alla luce dell'azzurro tuo cielo, aprimmo gli occhi incantati. Tu ci dicesti morite e noi sul tuo petto, benedicendo il tuo nome, chinammo la testa. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura di Circe di Anni Vivanti, Mondadori, editore. Da Devana, buon ascolto.